Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Lascio la pedana nella consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo dare a questo affascinante sport e la certezza di aver ricevuto almeno altrettanto. Ma di una cosa sono certa, la scherma mi ha insegnato a battermi e a non mollare mai. Ha formato il mio DNA e nella vita, dopo ogni fine, c'è sempre un inizio. Ed io non vedo un tramonto, ma l'alba di nuove sfide da affrontare e vincere. Così si è congedata, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Valentina Pezzali, grande campionessa di fioretto italiana, è stata l'atleta italiana che ha vinto di più in azzurro e con un video ha deciso di salutare i propri fan. Giustamente dice, a 42 anni forse meglio lasciare all'apice, come spesso si dice, anche se 42 anni effettivamente sono un'età molto longeva per decidere a quel punto di lasciare lo sport. Poi si riapre la polemica su Totti, è il caso di lasciare quando ancora si è così gagliardi, diciamo, oppure quando si comincia a declinare. In ogni caso non sarà questo il tema di questa sera, questo era giusto così per stare un po' fuori dalla politica, anche se anche Valentina Pezzali è una politica. Parleremo invece di uno scandalo che riguarda la politica, tanto per cambiare, e in particolare il PD campano, perché il capo, il leader del PD campano, il presidente del PD campano, è stato indagato per associazione camorristica, concorso esterno in associazione camorristica. Ne parleremo, lui dice che è assolutamente estraneo ai fatti contestati, però si è autosospeso. Poi ritorneremo sul caso Regeni, perché c'è stato un nuovo arresto che riguarda il caso Regeni ed è il consulente dall'Egitto della famiglia di Giulio Regeni. Questo che cosa significa? Che c'è uno spiraglio di apertura dall'Egitto nei confronti dell'Italia, secondo voi? Ecco, diciamo che sicuramente non depone a favore di questa ipotesi, per essere così eufemistici. E poi ci occuperemo anche dell'allarme lanciato dal capo dell'intelligence americana su possibili attentati dell'ISIS in Italia. È vero che i nostri 007 smentiscono, ma insomma chiaramente questi allarmi non è che fanno bene e rassicurano. Però ne parleremo con un esperto di terrorismo e capiremo se, diciamo, sono un po' delle spie, degli allarmi ciclici che in realtà non hanno, almeno per il momento, fondamento, anche se è difficile dire, no, fino a quando e in che dimensioni. Comunque, prima di tutto vi ricordo quali sono i due canali vostri per interagire qui a Effetto Notte. Se non siete tra i milioni che già ascoltano il programma da qualsiasi parte del mondo, sono il numero per i messaggi per i WhatsApp, che è il 349-238-6666, e poi la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Un tema che potrei lanciarvi questa sera, di cui anche parleremo di migranti naturalmente, perché la questione è sempre più una corsa a ostacoli, è di questa proposta della Norvegia, che ha deciso di offrire 1.000 euro ai migranti che volontariamente decidono di andarsene dalla Norvegia, di ritornare ai propri paesi, insomma di andare dove ritengono opportuno, ma che lasciano la Norvegia con 1.000 euro. Vi ricordate che qualche tempo fa era la Danimarca che aveva proposto di sottrarre ai migranti, a coloro che arrivavano nel paese, tutti i soldi che avevano, tranne i beni proprio affettivi, come non so, la fede, gli anelli, eccetera, per poterli poi mantenere, dargli l'assistenza e i servizi utili. Quale vi convince questa decisione della Norvegia? Potrebbe essere una soluzione? L'approvate? Che ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ma passiamo come sempre al riassunto della giornata. Camorra ha indagato il presidente del PD campano nella nuova inchiesta sui legami tra Camorra, imprenditoria e politica. 9 gli arresti. Tensioni Roma-Berlino, il presidente della Bundesbank Weidmann dice: dall'Italia e altri spesso violazioni al patto, e Padoan ha delle idee ottimistiche. Terrorismo, l'intelligence americana lancia l'allarme, anche l'Italia è a rischio attentati dell'ISIS, ma per i nostri servizi non c'è alcuna minaccia specifica. Caso Regeni, arrestato al Cairo il presidente di un'organizzazione non governativa che collabora con la famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso. Migranti, l'Austria insiste e domani annuncia la chiusura al Brennero. Caso Marò, la Corte Suprema dell'India ha deciso che la torre può restare in Italia fino al 30 settembre. Roma però non ci sta in replica, non tocca a voi decidere. Il disastro di Chernobyl, 30 anni dopo l'Ucraina toglie il segreto di Stato da 49 documenti, rivelano l'impreparazione e le violazioni alle norme di sicurezza. Norvegia, lo Stato norvegese farà appello contro la sentenza che ha stabilito che in carcere i diritti di Anders Breivik sono stati violati, l'autore della strage di Utøya. Scienza, scoperti i geni della felicità ma anche della nevrosi, uno studio sul DNA di 300.000 persone. Partiamo quindi da questo nuovo scandalo che sta coinvolgendo il PD campano. Si è autosospeso il presidente del Partito Democratico Campania, Stefano Graziano, accusato di concorso esterno in associazione camorristica. Lui si dice fiducioso nella giustizia, estraneo ai fatti contestati. Nel frattempo ci sono stati 9 arresti. È un duro colpo per il PD campano, soprattutto in vista delle elezioni amministrative, e di questo parleremo più tardi qui a Effetto Notte. E poi ci sono le tensioni tra Roma e Berlino. Il presidente della Bundesbank Weidmann dice: dall'Italia e altri spesso ci sono violazioni al patto di stabilità, e Padoan ha delle idee ottimistiche. In pratica il vicepresidente della Banca Centrale Europea, nonché numero uno appunto della Bundesbank, Weidmann, parla a Roma all'ambasciata tedesca e, dopo aver ricordato il contributo di Padoa-Schioppa alla costruzione dell'euro e i suoi avvertimenti, l'unione monetaria non può tornare indietro, prima si complimenta con le riforme del governo Renzi, poi evidenzia i punti di rottura con il ministro dell'economia Padoan e le criticità dell'Italia in termini di debito pubblico, e dice Padoan fa anche delle previsioni troppo ottimistiche. Infine chiede prima un'integrazione politica per rendere più robusta l'unione monetaria, poi, riconoscendo le resistenze alla cessazione di sovranità dai vari paesi, dice il rafforzamento del quadro esistente rimane l'unica alternativa. Migranti, anche il vincitore del primo turno delle presidenziali austriache, il leader della destra nazionalista Hofer, chiude le porte all'Italia sui controlli al Brennero, mentre arrivano nuovi dati sui migranti che hanno usato la rotta mediterranea per approdare in Europa. Dati di cui vi darò conto poi più tardi, così come ci occuperemo anche dell'allarme terrorismo che, secondo il campo dell'intelligence americana, riguarderebbe anche l'Italia, sebbene i nostri servizi abbiano subito smentito dicendo che non vi sono delle minacce specifiche. Capiremo insomma cosa vuol dire. Ora in Libia inizia a delinearsi il profilo del contingente che l'Italia invierà a Tripoli. Non un contingente di 900 uomini da parte dell'Italia, ma un dispiegamento iniziale di 200-300 soldati da vari paesi, con l'Italia che potrebbe fornire il contributo più rilevante. Tutto questo a protezione della missione ONU in Libia. I paesi hanno dato già la loro disponibilità, i piani operativi sono stati messi a punto, ma si attendono ancora i passi formali. Il premier libico Sarraj ha chiesto infatti aiuto per proteggere i pozzi petroliferi e siti sensibili dagli attacchi dello Stato Islamico, ma la sua richiesta è ancora ufficiosa. Manca infatti la piena legittimazione del suo esecutivo, e cioè la fiducia del Parlamento di Tobruk, ostaggio in parte delle milizie del generale Khalifa Haftar, e poi la formale richiesta di aiuto alle Nazioni Unite e una risoluzione che potrebbe affidare al nostro paese il ruolo guida. Potrebbe essere dunque questione di alcune settimane. Siamo ancora lontani da una decisione del Consiglio di Sicurezza, fa sapere oggi il vice segretario generale dell'ONU, lo svedese Jan Eliasson. Il governo italiano dunque smentisce la notizia dell'offerta di 900 soldati diffusa da alcuni quotidiani con funzione di addestramento dell'esercito libico e di presidio di infrastrutture strategiche. Nessuna offerta, perché non c'è stata nessuna richiesta formale da parte del governo libico all'ONU. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il caso Regeni, la famiglia di Giulio Regeni, il giovane ricercatore barbaramente torturato e ucciso in Egitto, si dice angosciata per l'arresto in Egitto del dottor Ahmed Abdallah, che è presidente di una organizzazione non governativa per i diritti umani che sta offrendo attività di consulenza ai legali della famiglia Regeni. Abdallah lavorava per documentare le sparizioni forzate nel suo paese. Ne parleremo nel corso di Effetto Notte con il portavoce in Italia di Amnesty International, che si sta occupando dall'inizio di questo caso. Intanto il governo britannico ha ribadito di essere inorridito dall'omicidio di Giulio Regeni, e quanto emerge dalla risposta alla petizione popolare nel Regno Unito, con oltre 10.000 firmatari, che chiedeva all'esecutivo, al governo, di esprimere in modo chiaro e netto la propria posizione sul caso. Il comunicato del Foreign Office, del Ministero degli Esteri inglese, condanna l'assassinio brutale e afferma di essere irritato per i limitati progressi fatti fino ad oggi nella soluzione del caso. E parliamo di limitati progressi, vero? Un eufemismo. Un'altra vicenda, quella dei Marò, anche vicenda diversa. La Corte Suprema di Nuova Delhi ha stabilito che il fuciliere di Marina Massimiliano Latorre potrà restare in Italia fino al 30 settembre. L'annuncio della Farnesina, che però in una nota il nostro Ministero degli Esteri ha spiegato che il governo italiano, in seguito a questa decisione, considera sospesa e quindi priva di valenza giuridica la giurisdizione indiana sul caso. Il presidente della seconda sezione del Tribunale indiano ha comunque fissato una nuova udienza per il 20 settembre prossimo. E siamo alla politica italiana, a Roma precisamente, dove il centrodestra prova, seppur con difficoltà, a ricompattarsi. A Roma, in un centrodestra quanto mai diviso, vanno avanti con difficoltà le prove di dialogo in vista delle amministrative. Ero pronto ad un passo indietro per trovare una convergenza con Alfio Marchini, ma Forza Italia mi ha affermato per non compromettere i rapporti con Lega e Fratelli d'Italia, rivela oggi Guido Bertolaso, il candidato azzurro blindato da Silvio Berlusconi. Il centrodestra, come lo abbiamo conosciuto, è un'esperienza chiusa. Dobbiamo costruire una nuova casa, gli fa però eco Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, in corsa anche lei per il Campidoglio col sostegno del Carroccio. Sempre nella capitale, il Partito Democratico va invece all'attacco della candidata 5 Stelle, Virginia Raggi. L'accusa è quella di aver taciuto su un incarico ricoperto in passato in una società vicina a Franco Panzironi, l'ex braccio destro di Alemanno ed ex numero uno di Ama, coinvolto nell'inchiesta su Mafia Capitale. Il mio era solo un incarico tecnico, fa sapere l'esponente pentastellata, mentre Alemanno assicura di non aver avuto mai nulla a che fare con quella società. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di nuovo all'estero adesso, l'Ucraina ha tolto il segreto di Stato da 49 documenti top secret legati al disastro di Chernobyl di 30 anni fa, lo riporta la testata online Rosbalt.ru, secondo cui il materiale desecretato rivela l'impreparazione delle autorità sovietiche a far fronte a un incidente come quello che poi si è verificato nel 1986, nonché le violazioni delle norme di sicurezza. Nel frattempo però, in questo trentesimo anniversario del disastro di Chernobyl, centinaia di persone hanno sfilato per il centro di Minsk in Bielorussia per manifestare contro la realizzazione di una nuova centrale nucleare nella regione di Grodno. Il corteo denominato Viale Chernobyl è stato organizzato dall'opposizione. La Bielorussia è uno dei paesi più colpiti dalla catastrofe di Chernobyl avvenuta nel nord della vicina Ucraina. E adesso parliamo della Norvegia, non solo, poi ne parleremo di questa decisione della Norvegia di offrire a ogni migrante che volontariamente se ne voglia andare dalla Norvegia 1.000 euro, e su questo vi chiedo il vostro parere, perché vi ho ricordato invece che la Danimarca aveva fatto una legge opposta, cioè di sequestro dei beni ai migranti in modo che con quei beni, con quei soldi possono dare loro assistenza. Che cosa vi convince di più come possibile scelta, oppure nessuna delle due? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vi dicevo però c'è un'altra notizia che riguarda la Norvegia. Lo Stato norvegese farà appello contro la sentenza che qualche giorno fa, vi ricordate, ha stabilito che in carcere i diritti di Anders Breivik, l'autore della strage di Utøya, sono stati violati. Ricordate, siete intervenuti in molti su questa sentenza. Lo riferiscono i media internazionali. L'uomo che il 22 luglio del 2011 uccise 77 persone, secondo la Corte, sta subendo trattamenti inumani e degradanti in quanto è tenuto in isolamento da 5 anni, anche se si era detto che era un isolamento dorato perché aveva a disposizione 3 celle, lo spazio per fare ginnastica, videogiochi, televisione, eccetera. Quindi contro quella sentenza della Corte norvegese che dice che sono stati violati i suoi diritti, lo Stato norvegese adesso ha fatto appello. E siamo di nuovo in Italia con una vicenda che ha preso un'altra piega, una storia di cronaca. Gli investigatori della squadra mobile di Varese hanno arrestato il 41enne Alessandro Argenziano con l'accusa di aver ucciso la moglie 28enne Stefania Malfi, trovata senza vita la sera del 25 aprile 2015, quindi un anno fa. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo, dopo aver somministrato alla moglie una forte quantità di calmante, l'avrebbe ridotta in uno stato di semi-incoscienza per poi soffocarla. Il cadavere della donna fu trovato nel letto, nell'appartamento della coppia, in una palazzina di edilizia popolare a Varese. Lui disse che si trattava di un suicidio. Sempre secondo quanto spiegato ora dalla questura di Varese, il movente dell'omicidio sarebbe legato, pensate, al desiderio di entrare in possesso di una polizza di risparmio che la donna aveva stipulato a proprio nome. Per chiudere, la scienza, una scoperta, i geni della felicità determinano il modo in cui le persone vivono un'esperienza positiva e riescono a stare bene con se stesse. Pubblicata dalla rivista Nature Genetics, la scoperta è stata possibile analizzando il genoma di quasi 300.000 persone. I ricercatori dell'Università di Vire ad Amsterdam hanno individuato 3 varianti genetiche coinvolte nella felicità, 2 legate ai sintomi della depressione, 11 punti del genoma correlati invece alla nevrosi. La scoperta di questi geni, mi dice, che farà? Potrebbe aiutare in futuro a mettere appunto terapie per ridurre i livelli di ansia. Voi comunque, qualsiasi siano le notizie, spesso anche brutte, negative, di Effetto Notte, lo sapete, non vi metto ansia, però scrivete le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero per i WhatsApp e per gli SMS 349-238-6666 con questa decisione della Norvegia di provare a dare dei soldi ai immigrati che volontariamente lasciano la Norvegia. 1000 euro per ora è questa la cifra. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno già sta scrivendo: Norvegia e Danimarca, nessuna delle due soluzioni può funzionare, la stessa differenza che c'è tra correre e scappare. Poi Lidia scrive: tutte le soluzioni europee sono vergognose relativamente ai migranti, cosa fa un emigrante con 1000 euro? A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie che vi ricorderò tra poco e poi cominciamo naturalmente a entrare nel cuore di alcuni argomenti in particolare con gli ospiti e poi naturalmente anche i vostri messaggi al 349-238-6666 come WhatsApp, come SMS oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Fra le cose di cui ci occuperemo stasera, ci occuperemo di immigrazione tra poco, e c'è questa proposta della Norvegia di dare 1000 euro a ogni migrante che volontariamente lasci il paese. Questa è una, dice la Norvegia, costano troppo tenerli, assisterli qui nel nostro paese, quindi facciamo questa offerta di 1000 euro. Vi ho ricordato prima che la Danimarca invece va fatto passare una legge più o meno opposta, insomma, di sequestrare invece i beni ai migranti che arrivano nel paese, in modo che con quei soldi, con quei beni, riescono a utilizzarli per assistere, per dare loro servizi, assistenza, eccetera. Cosa ne pensate? Dice un altro ascoltatore: con 1000 euro quei poveracci non possono andare tanto lontano. Poi Roberto da Roma: la reazione di Norvegia o Danimarca è anche dovuta al fatto che l'enorme problema migranti è visto solo in chiave europea allorquando è mondiale. L'ONU deve farsi avanti e stabilire criteri di riparto nel mondo, come esempio del Canada ha ricevuto quasi 20.000 migranti, chi lo sa, dice Roberto da Roma. Ne parleremo tra breve, intanto vi ricordo quali sono anche le altre notizie importanti della giornata. Indagato il presidente del PD della Campania, chiese voti alla camorra, perquisizioni e arresti oggi, e poi Guerini, vice segretario del PD, dice: faremo chiarezza, fiducia nei PM. In calo l'aspettativa di vita in Italia, è la prima volta, e l'Istat dice: ci sono tanti giovani quanti anziani, ma mentre i primi diminuiscono gli altri crescono, sale l'indice della vecchiaia. Destra austriaca chiude sul Brennero, controlli inevitabili, e la Norvegia appunto offre 1000 euro ai primi 500 che accettano i rimpatri, quindi c'è anche una scadenza ovviamente, almeno per adesso il momento è i primi 500. Libia, 250 soldati a difesa della missione ONU, gli italiani pronti, e poi questo allarme dagli Stati Uniti per possibili attentati dell'ISIS in Italia, anche se i nostri 007 frenano e dicono prudenza, non c'è nessuna minaccia specifica. Via libera dell'India al Marò, la torre in Italia può restare fino al 30 settembre, ma per Roma decide il Tribunale del Mare. E denuncia della famiglia Regeni: arrestato un nostro consulente in Egitto, Ahmed Abdullah, accusato di istigazione e violenza contro il governo. Ne parleremo poi qui Effetto Notte. E scoperti i geni della felicità ma anche della nevrosi, un studio sul DNA di 300.000 persone dell'università, questo studio di Amsterdam. Sergio Nava, non so se tu sei felice, certamente, di essere qui Effetto Notte, immagino. Chiaramente sì. Ciao Sergio. Ciao. Senti, parliamo di un problema invece molto grande, delicato, articolato, complesso, che è l'immigrazione, che ormai è una corsa a ostacoli in Unione Europea, viene definita così, questo cercare di gestire il flusso dei migranti. Tra le prossime tappe si va dai controlli al Brennero annunciati dall'Austria, domani verrà presentata questa barriera o in un termine un po' macchinoso come l'ha definito l'Austria, poi bisogna anche far tornare a un corretto funzionamento l'accordo di Schengen. C'è stato poi nei giorni scorsi l'accordo sulle guardie di frontiera europee, c'è in ballo la riforma del regolamento di Dublino. Insomma, poi ieri c'è stato anche il G5, il vertice G5 ad Hannover tra Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia, e dove Obama ha anche assicurato che metterà a disposizione mezzi della NATO per gestire la crisi dei migranti, per contrastare gli scafisti. Vi do anche i dati dell'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per i Migranti, secondo la quale sono 1232 i migranti e rifugiati morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere l'Europa, e nello stesso periodo il totale degli arrivi via mare è salito a 181.476. E vi dicevo di questa iniziativa della Norvegia che lancia questa proposta di accelerare l'uscita dei migranti irregolari dando loro 1.000 euro. Sergio, intanto c'è appunto l'Austria che domani farà questa presentazione ufficiale del management di controllo del confine, un'espressione per dire cosa, insomma. Lo capiremo sicuramente domani. Roberta, è chiaro che in qualche modo Vienna cercherà di mascherare quella che di fatto può apparire un po' come un irrigidimento molto forte al confine, non chiaramente una chiusura, ma un ritorno a quello che in toto, a ciò che c'era prima di Schengen, cioè controlli al confine, con un, come dire, impacchettandolo con termini magari appunto inglesi o comunque meno duri di quello che nella realtà sono, ma di fatto Schengen è già in coma profondo, soprattutto in determinate zone, ma lo vediamo anche al confine franco-italiano con i controlli sui treni che ci sono ormai frequenti. Domani alle 13 questa conferenza stampa. Nei fatti il partito d'estrema destra austriaco, la FPÖ, che ha stravinto, anche se non si è ancora giudicato, le elezioni presidenziali di domenica, con il candidato appunto vincitore Norbert Hof, ha detto: i controlli al Brennero non mi rendono felice, non ci sono altre possibilità. E la Heinz-Christian Strache, che è il leader dell'FPÖ, ha un po' gettato la colpa sull'Italia, ha detto: la gestione della crisi è responsabilità di Roma, se Roma non agisce noi allora siamo obbligati noi ad agire. È chiaro, allora innanzitutto premettiamo, la FPÖ non ha nessun ruolo di governo al momento in Austria, però nel caso ci fosse una crisi di governo e si andasse a votare prima del 2018, che è la scadenza naturale dell'attuale esecutivo, è chiaro che avrebbe ottime possibilità di andare al governo, a quel punto sarebbero effettivamente problemi. Ma è anche chiaro che l'attuale governo austriaco, quello di Faymann, del socialdemocratico, allo stesso tempo ha adottato una posizione, proprio per evitare una caduta libera nei voti e nei sondaggi, anche abbastanza, se vogliamo, a destra, e lo dimostra questa conferenza. Il tutto si inserisce in un quadro macro, come dicevi tu Roberta, che è chiaramente molto complesso, tra proposte che la Commissione sta facendo, nuove discussioni a livello europeo, gestione del rapporto con la Turchia che è tutto tranne che semplice. Bisognerà vedere adesso se diremo ad Ankara, che hanno in qualche modo ottemperato tutte le condizioni sui visti per avere la liberalizzazione dei visti, altrimenti Ankara minaccia di strappare tutto. La situazione è magmatica, è fluida. Entro la mezzanotte di oggi la Grecia deve dire, tra l'altro scade il famoso termine di 3 mesi per mostrare all'Europa come ha rafforzato le proprie frontiere per evitare a sua volta un'espulsione a Schengen. Da qui a giugno può succedere veramente di tutto. Sergio, questo per quanto riguarda appunto i migranti, ma parlavi del governo austriaco. Parlando di un altro governo che ancora non c'è, invece, proprio abbiamo ancora un minuto, visto che segui anche molto la Spagna, ho visto che ancora non sono riusciti a fare un governo. Sì, di fatto quello che dopo le elezioni. Quello è successo oggi è che il re Felipe ha riconvocato per la terza volta, se ricordo bene, i principali leader di partito, prendendo atto che non c'è più un candidato a questo punto premier. Aveva provato prima col Mariano Rajoy, premier uscente e vincitore, anche se con maggioranza relativa non assoluta delle ultime elezioni. Rajoy non ce l'ha fatta, poi è passata la palla a Sanchez, che ha provato a costruire una coalizione a tre con Podemos, la sinistra di Podemos, e con i liberali di Ciudadanos. Anche lui, dopo diversi tentativi, addirittura 2 voti, non ce l'ha fatta. Negli ultimi tempi anche i tentativi dei socialisti, che sembrava l'unico partito che potesse costruire una coalizione, sono naufragati, soprattutto per le ritrosie di Podemos, perché i socialisti con i liberali di Ciudadanos erano riusciti a siglare un accordo. Podemos alla fine non ha accettato di far parte di una coalizione tripartita con Ciudadanos, e di fatto tecnicamente c'è tempo ancora fino al 2 maggio, ma ormai è praticamente certo che il 26 giugno la Spagna torna alle urne. È la prima volta che ciò succede nella Spagna post-franchista, cioè nella democrazia spagnola, non era mai successo prima, e nel mezzo ci sono 6 mesi di un paese rimasto senza governo, effettivamente 6 mesi purtroppo per loro buttati. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Adesso parliamo di qualcosa che in qualche modo può essere legato anche al flusso dei migranti, ma un po' lateralmente. Ne parliamo con Arturo Varvelli, responsabile dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Questa minaccia terroristica, perché il numero uno dell'intelligence americana, James Clapper, ha parlato di prove di piani di attacchi, motivo di preoccupazione per i nostri alleati in Europa. Però dice non solo per la Francia e per il Belgio, come purtroppo si è visto finora, dice però l'ISIS ha cellule dormienti anche che preparano anche attacchi terroristici in Italia, in Germania e in Inghilterra. È un allarme che viene definito, insomma, da quello che è lo zar Clapper come attendibile. Ne ha parlato in un colloquio ieri con il Christian Science Monitor, poi Varvelli se ci spiega esattamente di cosa si tratta, e per questo sottolinea il direttore della National Intelligence americana, gli Stati Uniti stanno spingendo per promuovere più condivisione di informazioni tra le intelligence, che poi è quello che dopo gli attentati di Francia e Belgio si è rimproverato all'Europa di non avere un coordinamento dell'intelligence, no? All'interno del vecchio continente. Secondo Clapper, inoltre, l'ISIS sta sfruttando per i suoi scopi la crisi dei migranti in Europa. Sì, insomma, è un panorama piuttosto tetro quello dipinto dal capo dell'intelligence USA, e peraltro è un panorama che in Europa è piuttosto conosciuto per i fatti che sono recentemente accaduti nell'ultimo anno, diciamo, da Parigi a Bruxelles. Relativamente all'Italia, la nostra intelligence si è, diciamo, subito spesa per diminuire o contestualizzare, diciamo, l'allarme. Non vi sarebbero naturalmente piani imminenti di attacchi, ci è stato detto, e naturalmente l'allerta rimane alta, e certamente l'Italia può essere un obiettivo. In questo bisogna essere naturalmente chiari: non esiste nessun paese a rischio zero. Che non sia mai accaduto qualcosa, purtroppo, non testimonia che siamo immuni da questo fenomeno, tutt'altro. Testimonia forse che l'intelligence certamente ha agito bene fin quando non succedono cose. L'intelligence ha sempre agito bene, abbiamo una tradizione che è molto diversa da alcuni dei nostri partner europei, basta ricordare il Belgio naturalmente, che ha avuto problemi di coordinamento di ogni tipo, che non ha neanche un'expertise che ha avuto l'Italia storicamente su fenomeni di terrorismo di sinistra e di destra. Mi pare di poter dire che le nostre forze di polizia, i carabinieri, l'intelligence si stia adattando piuttosto bene al nuovo e complesso scenario del terrorismo, cioè sta formandosi una expertise nuova e rinnovata nel campo dell'intelligence di contrasto al fondamentalismo islamico e ai pericoli di radicalizzazione di questo tipo. Stanno riorientando le forze di polizia, stanno in qualche maniera adeguatamente controllando questi fenomeni, e dall'altra parte bisogna dire che anche l'Italia ha avuto dei fenomeni di radicalizzazione molto diversi rispetto ai paesi europei, e questo soprattutto perché abbiamo seconde e terze generazioni di immigrati che ancora si stanno formando, e quindi sarà un problema a venire. O forse non lo sarà, perché saremo capaci di operare in maniera diversa, con un'integrazione di tipo diverso, con percezioni di comunità che sanno salvaguardare un'identità forse diversa rispetto ad altri paesi, ma nulla mi pare scontato, e non si può dire che naturalmente siamo immuni. Comunque Varvelli, di solito si vede, si guarda l'intelligence americana come forse quella israeliana la più potente, la più preparata del mondo. Perché questo allarme lanciato anche per l'Italia, quindi? Ma questo Ci possono essere diverse motivazioni, non è dato sapere. A volte si fanno interviste di questo tipo per lanciare dei segnali e per incentivare collaborazioni di qualche tipo. Probabilmente gli Stati Uniti reputano che la collaborazione intraeuropea in questo settore sia ancora bassa e che debbano essere fatti dei passi ulteriori. Il problema naturalmente dell'Europa rimane lo stesso relativamente su questo tema, il tema di sicurezza rimane lo stesso che ha su altri campi. Naturalmente ognuno in Europa, ogni paese si sente una nazione e delegare alcune delle responsabilità che fanno in capo allo Stato, nazione, è molto difficile. Ancora di più nel settore dell'intelligence, dove abbiamo visto c'è una diffidenza, diciamo, quotidiana e continua rispetto a ciò che viene percepito altro. Quindi difficile pensare che ci possa essere naturalmente un'intelligence unica europea, come è stato dichiarato da qualcuno. Certamente però una maggiore e più continua condivisione di alcuni dati fondamentali certamente può contribuire a una salvaguardia dei nostri interessi e a una sicurezza generale che non può andare a discapito dei sicurezze nazionali. Grazie Arturo Varvelli dell'ISPI. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Adesso, prima di lasciarci per questa piccola breve pausa di ricreazione, volevo leggere i vostri molti messaggi che stanno arrivando sulla iniziativa lanciata dalla Norvegia, che dice: qui tenerci i migranti costa troppo, ai primi 500 che volontariamente lasceranno il paese daremo 1000 euro. Vi dicevo che invece avevamo parlato mesi fa della proposta anzi una legge della Danimarca di sequestrare i beni ai migranti che arrivano nel paese con quei fondi, insomma, finanziare poi l'assistenza nei loro confronti. Cosa ne pensate? 349-238-6666, il numero per i messaggi e per i WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Alessandro scrive: la Norvegia è la terra dei nuovi pitocchi. Ogni rifugiato ha speso normalmente dalle 3 alle 5 volte dei 1000 euro offerti loro per andarsene, o anche di più. Non era il re di Norvegia che si è rifiutato di dare la mano al nostro PM? E dice: si vergognino. Ilaria: fossi migrante contratterei sul prezzo data la disponibilità della controparte. Dice Luciano: ma la Norvegia fa parte della comunità europea? L'Austria fa muri, la Norvegia da 1000 euro, l'Italia 35 euro al giorno, ma una politica comune per tutti uguale no? Si chiede così Luciano. E poi anche su WhatsApp: i migrati arrivano a spendere 5000 euro fra i trafficanti e il resto per arrivare in Europa. La misura dei 1000 euro per convincerli a andarsene mi pare poca cosa. La Norvegia, dice un altro messaggio, è un paese che difende un terrorista, si riferisce a Breivik, e liquida, ecco, i poveri migranti con un'elemosina. Strano paese davvero. Questo lo scrive Mirko da Genova. Continuate le vostre riflessioni, ci sentiamo a momento. Logisticamente Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rispondendo a Davigo, Renzi aveva detto: basta con la politica subalterna ai magistrati. Ha ragione, è giusto. Ma perché la politica deve essere subalterna ai magistrati quando può essere subalterna ai casalesi? Ecco, siamo entrati proprio a fagiolo con Crozza di Fartedì, perché tra poco parleremo proprio di questa cosa che riguarda il PD, o almeno il presidente del PD campano. Proprio il momento, un tempismo straordinario. Roberta Giordano sempre con voi. Vi ricordo tra pochissimo notizie più importanti. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla proposta della Norvegia di pagare 1000 euro ai primi 500 migranti che volontariamente decidono di lasciare il paese. Sandro dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: costano troppo ai norvegesi, invece a noi no, anni e anni di soccorsi in mare, i centri, le case, gli hotel, eccetera. Poi Fabrizio dice: l'illegalità va combattuta per poter accogliere poi in modo legale. E un altro ascoltatore, Piero, dice: l'offerta è proponibile, solo che 1000 euro sono improponibili, occorre purché sia accettabile offrire almeno 1500-2000 euro. Continuate anche al 349-238-6666. Intanto vi ricordo le notizie più importanti. Camorra ha indagato il presidente del PD campano nella nuova inchiesta sui legami tra Camorra, imprenditoria e politica. 9 gli arresti, quel punto cui faceva cenno a Crozza. Tensioni Roma-Berlino, il presidente della Bundesbank Weidemann dice: dall'Italia e altri spesso violazioni al patto, e Padoan ha idee troppo ottimistiche. Terrorismo, l'intelligence americana lancia l'allarme, anche l'Italia a rischio attentati dell'ISIS, ma per i nostri servizi non c'è alcuna minaccia specifica. Caso Regeni, arrestato al Cairo il presidente di un'organizzazione non governativa che collabora con la famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso. Migranti, l'Austria insiste e domani annuncia la chiusura del Brennero, e vi parlavo anche di questa proposta della Norvegia. Caso Marò, la Corte Suprema dell'India ha deciso che la torre può restare in Italia fino al 30 settembre, Roma non ci sta e replica, non tocca a voi decidere. Quindi dicevamo, guai per il PD campano. Questa mattina sono stati perquisiti gli uffici e le abitazioni del presidente del PD della Campania, Stefano Graziano, 45 anni, accusato di concorso esterno in associazione camorristica. Graziano, secondo gli inquirenti, avrebbe ottenuto appoggio elettorale dall'imprenditore Alessandro Zagaria, che è solo un omonimo del boss, in cambio di favori relativi a un appalto. Ne parliamo con la nostra Elisabetta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Elisabetta. Ciao Roberta, allora io ho sentito che ci sono degli allarmi sull'ISIS, no? che può colpire l'Italia e tutto quanto, noi speriamo che non sia vero, però noi sappiamo per certo che la Camorra comunque invece la colpisce sempre a questo punto. Ce l'abbiamo proprio in seno, diciamo, la Camorra, quindi colpo sicuro. L'organizzazione dei criminali sono una certezza. Allora facciamo un pochino di garantismo. Sono indagini, c'è questa persona che viene accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, che più garantisti dicono essere un reato un po' fumoso, mentre più giustizialisti dicono no, in realtà è appoggiava i clan. Ora la cosa ci interessa assolutamente fino a un certo punto, però per quanto riguarda la magistratura deve andare avanti, no? Siamo tutti consapevoli, poi ci saranno i processi. Dal punto di vista politico ci interessa un pochino di più, perché è un pochino più, diciamo, interessante soprattutto all'avvicinarsi delle amministrative. E certo. Allora, c'è un PD in forte imbarazzo, c'è una campagna che chiunque vada al potere comunque viene inquisito, questo va detto, no? Abbiamo avuto il caso di Bassolino che poi è uscito ed è stato assolto. Quindi è molto difficile governare in una regione dove la Camorra in realtà governa lei, perché poi bisogna dirle le cose, no? Allora è chiaro che in questo momento per il PD, con le elezioni amministrative che si avvicinano, Stefano Graziano proprio non ci voleva, ecco. Perché lì si vota allora, a Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, no? In Campania, ben quattro città. Sì, e poi si vota poi soprattutto anche a Roma e a Milano. Già, cioè, queste sono le ripercussioni a livello nazionale. Che è commissariata per mafia, quindi non è che bisogna andare poi troppo al sud. Allora, il problema è che subito Palazzo Chigi ha detto Graziano non ha avuto rinnovato l'incarico a Palazzo Chigi. Guerini ha detto... Che ce l'aveva con Letta, l'incarico, ce l'aveva con Letta, sì. Ma Renzi ha detto con noi no. No, con noi no, ma Guerini ha detto totale fiducia nella magistratura. Oggi io ho intervistato la Presidente della Commissione Giustizia della Camera, che è un ex PM della Terra Ferranti, che ha assolutamente negato la giustizia ad orologeria e soprattutto un pochino imbarazzata, dice, ti dico la mia opinione. Cioè, no? E chiaramente questa tegola, diciamocelo, per il PD non ci vuole. Non ci voleva, intanto è vero che il Movimento 5 Stelle attacca e attacca anche la Lega, e vediamo come andrà a finire. È vero però, questo bisogna dirlo nei confronti di tutti i partiti che si dovessero presentare a Napoli, è molto difficile governare in una regione dove governa la Camorra, ed è vero che comunque Stefano Graziano si è autosospeso dal partito. Allora lì i casi sono due. Se si governa probabilmente c'è il rischio anche certe volte di essere inquisiti se innocenti. Ricordiamo che c'è stato un rapporto, no? Dove vanno in galera gli innocenti, cioè. Però insomma un pochino più di attenzione riguardo al PD e riguardo a tutti i partiti andrebbe fatta. L'altra cosa è che questa cosa capita in un momento di scontro con la magistratura che c'è stato durante il weekend con Pier Camillo Davigo, il neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha equiparato la politica con la corruzione, cioè i politici uguali sono tutti corrotti. grande levata di scudi di Matteo Renzi, ora spunto fuori questo Stefano Graziano, insomma. Come dicevi tu, situazione imbarazzante che vedremo che piega prenderà nei prossimi giorni, anche perché si vanno sempre più vivaci, diciamo, il clima vivace verso le amministrative. Grazie Betta Fiorito da Roma. Grazie a voi. Ciao Betta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Scrivete sui canali giusti, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, sulla proposta che vi ho ricordato più volte della Norvegia sui migranti di pagare 1000 euro a quelli che volontariamente se ne vanno. Un altro ascoltatore scrive: con 1000 euro questi poveracci non possono andare tanto lontano. Vi ricordo le altre notizie importanti della giornata, che sono queste. Indagato, ne abbiamo appena parlato, il presidente del PD della Campania Graziano chiese voti alla camorra secondo gli inquirenti, perquisizioni e arresti. Oggi sotto il vice segretario Guerini del PD dice: faremo chiarezza e tanto fiducia ai PM. È in calo l'aspettativa di vita in Italia, è la prima volta che succede, questo lo dice il rapporto Osserva Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi la destra austriaca che chiude sul Brennero e domani presenterà questa barriera, o capiremo bene di cosa si tratta, dice sono controlli inevitabili. E poi la Norvegia che fa questa proposta di 1000 euro i primi 500 immigrati volontari che accettano i rimpatri. E ora l'appuntamento con gli USON, la rubrica che propone un dialogo tra elettori e rappresentanti dell'Unione Europea. Sul sito di Radio 24 poi trovate tutti i contatti elettronici per scrivere e conoscere meglio il loro lavoro. Uzon, incontro con gli europarlamentari. Nome: Massimo. Cognome: Paolucci. Età: 56 anni. Nato a Napoli. Eletto in nella circoscrizione del Sud al Parlamento Europeo. Con quanti voti? 118.000. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: Socialisti e Democratici. Segni particolari: incorreggibilmente di sinistra, orgogliosamente meridionale, paziente e testardo, innamorato perso dei miei fornelli, del buon vino del mare. Quante lingue parla? Male il francese e malissimo l'inglese. Competenze europee in 10 parole: ambienti, trasporti, sanità pubblica. Benvenuto nella Uzon di Radio 24 da Silvia Bernardi. Per il nucleare in Europa sono necessari 760 miliardi di euro di investimenti fino al 2050 per mantenere il parco energetico nucleare. Investimento o perdita? No, perdita, assolutamente perdita. L'alternativa ai combustibili fossili, gas, carbone e petrolio, non è l'energia nucleare. Insistere sull'energia alternativa, fare di più su efficienza e risparmio, combattere gli sprechi. La battaglia più importante sul cambiamento climatico: senza dubbio la riduzione delle emissioni di CO2. Abbiamo a Parigi tutti quanti gioito per i risultati, adesso dobbiamo essere conseguenti. Per tenere sotto i 2 gradi di riscaldamento del pianeta dobbiamo ridurre entro il 2030 del 40% le emissioni. Tre temi caldi in materia ambientale. Primo, lotta all'inquinamento. In Italia muoiono di morti precoci ogni anno 80.000 persone, 400.000 in Europa. L'inquinamento provoca morti 10 volte superiori agli incendi stradali. Secondo, l'economia circolare sarà la sfida dei prossimi decenni. Produrre la stessa quantità di prodotti utilizzando il 30% in meno di materie prime. Fine dell'uso e getta. Non considerare il prodotto come un bene che ha un inizio e una fine, nasce, viene costruito e muore, ma come un bene che ha una vita lunga, che può essere riparato, riciclato, riutilizzato in parte. E terzo, sicurezza alimentare, tutela e promozione dei prodotti tipici. Perché sei candidato? Perché per cambiare il tuo paese deve cambiare l'Europa. Con questa Europa non andiamo molto lontano, ma senza l'Europa i singoli stati nazionali non vanno da nessuna parte. L'ultimo libro letto? Anime di vetro di Maurizio De Giovanni. Cosa voleva fare da piccolo? Il vigile del fuoco. Se avesse la bacchetta magica? Farei innanzitutto lotta alla povertà nel mondo. Uzon, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso passiamo al caso Regeni, una novità purtroppo negativa, tanto per cambiare, sul caso Regeni, perché la famiglia di Giulio il giovane ricercatore barbaramente torturato e ucciso in Egitto, come naturalmente sapete e ricordate, e sulla morte del quale si aspetta, l'Italia aspetta da tempo almeno uno spiraglio di verità da parte dell'Egitto. Ebbene, la famiglia Regeni si dice angosciata per l'arresto in Egitto del dottor Ahmed Abdallah, presidente del Consiglio d'amministrazione della Commissione Egiziana per i diritti e la libertà, che è un'organizzazione non governativa che sta offrendo attività di consulenza, ha detto la famiglia, per i nostri legali. Praticamente è un consulente dall'Egitto. Abdallah lavorava per documentare le sparizioni forzate nel paese, che abbiamo appreso ormai negli ultimi tempi sono molte più di quanto si possa pensare. Amnesty International precisa che Abdullah è stato prelevato nella sua abitazione nella notte tra il 24 e il 25 aprile dalle forze speciali, accusato di istigazione alla violenza per rovesciare il governo, adesione a un gruppo terroristico e promozione del terrorismo. Questo, purtroppo, questi fatti continuano a confermarci quale propensione abbia il regime egiziano nel collaborare con l'Italia e con la famiglia Regeni, e anche di che natura sia questo regime, come ci confermerà anche, immagino, Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buonasera Nuri. Buonasera, sì, lo confermo, perché qui siamo di fronte a un ulteriore salto in negativo di qualità nella repressione al Cairo, centinaia di arresti negli ultimi giorni, ma non solo arresti di massa, anche arresti molto, molto mirati, attivisti per i diritti umani, giornalisti locali e stranieri che avevano seguito dall'inizio del caso di Giulio e attivisti per i diritti umani come Abdullah, che è uno dei massimi dirigenti di quella che a mio avviso è la più importante organizzazione non governativa in Egitto, la Commissione Egiziana per i diritti e le libertà. Quindi tanto coraggio da parte anche di queste persone, bisogna dire, Nuri, perché per noi che siamo in Italia ci sembra anche normale, per certi versi, al di là delle nostre magagne eccetera, desiderare di sapere la verità su quello che è successo. Per chi si trova lì in Egitto, ci ricordava lei di questo giro di vite ulteriore, di arresti di massa proprio nelle proteste di piazza anche di ieri, del 25 aprile, no? E poi dei giornalisti arrestati, di quante persone scomparse di cui probabilmente non sappiamo nulla, no? Ma questo è proprio il punto. Ahmed Abdullah ha, io credo, la responsabilità, io la giudico naturalmente come suo collega, una responsabilità importante e positiva di aver rivelato con le sue denunce, con i suoi rapporti, in quale contesto doveva essere inserita la vicenda di Giulio Regeni, omicidio a seguito di tortura. E la Commissione Egiziana per i diritti e le libertà, insieme all'altro centro, al Nadim, per la riabilitazione delle vittime di tortura, hanno fatto conoscere al mondo che nel 2015 c'erano stati oltre 1000 casi di tortura e quasi 500 sparizioni. Questa organizzazione, proprio la scorsa settimana, aveva rivelato i numeri del quadrimestre dal 1 dicembre al 31 marzo, altre 204 sparizioni, 101 di questi desaparecidos ancora non trovati. E quindi è questo quello che sicuramente dà fastidio, questa collaborazione che in alcuni casi è diretta, in altri è indiretta, ma è molto utile qui in Italia perché fa conoscere bene il contesto nel quale è maturato l'omicidio di Giulio. Riccardo Nuri, appunto, da una parte dicevo che questa cosa ci dice ulteriormente che non c'è grande possibilità di collaborazione, di sapere la verità su Giulio, ma anche ci conferma, non vogliamo essere così drastici, ma che la fine di Giulio è stata quella che immaginiamo, che quindi c'è poco da dire, il regime egiziano, che sono stati prima un incidente, poi un festino a luci rosse, altre cose, una banda di delinquenti squinternati, no? Beh, per confermare questo quadro che è fortemente sospetto, come minimo c'è solo un'ultima cosa che manca, purtroppo è quella più importante, cioè che lo ammettano le autorità egiziane. Io voglio sperare, e sono estremamente ottimista, spero non troppo, che mentre in pubblico va in scena questa repressione enorme e ci sono anche scene veramente volgari come l'annunciatrice televisiva che ha detto vada a quel paese, l'Italia e Regeni, insulta l'Italia e Giulio, che al di là di questo disdicevole aspetto pubblico poi ci sia magari all'interno degli organi giudiziari egiziani una ripresa di volontà di collaborare. Me lo auguro, perché se manca anche questa, veramente il quadro è assolutamente nero. Bisogna essere davvero molto ottimisti per sperarlo. Grazie Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Adesso un ultimo sguardo ai vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Nota, il 349-238-6666. Carmela scrive: Norvegia, la cosa più nebulosa da chiarire è dove dovrebbero andare i rifugiati che loro fanno uscire con il viatico dei 1000 euro? Hanno fatto accordi con i confinanti? Non è una domanda peregrina, in effetti. Ci sentiamo alle 22.